La situazione attuale, mai come oggi abbiamo milioni di rifugiati, neanche dopo la seconda guerra mondiale avevamo così tanto numericamente, perché abbiamo superato 68 milioni di rifugiati oggi nel mondo, e mai come oggi anche il diritto e la protezione di queste persone è messa in discussione e in crisi. Addirittura la notizia che anche gli Stati Uniti abbia abbandonato il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, questo vuol dire mette in discussione e a rischio quelli che pensavamo dato per acquisito negli ultimi 70 anni, i diritti fondamentali delle persone, il diritto di asilo, di protezione alle persone che sono stati costretti a lasciare la loro terra e tutelare i più vulnerabili. Tutto questo oggi stiamo assistendo invece alla corsa di chi è più duro, più cattivo, più che colpisce poi le persone più deboli, non le cause che hanno prodotto questo esodo, non colpisce i poteri forti che hanno interessi nella guerra, nelle dittature, in tutte queste situazioni che stanno producendo questi milioni di rifugiati. Proprio su questo, come dire, dittatori o figure autoritarie anche in democrazia ne abbiamo già viste, insomma, molte nella storia. Una cosa che colpisce è il consenso sociale che sembrano avere queste politiche, queste persone. Secondo lei a cosa è dovuto? Ma dovuto alla crisi dei valori e alla crisi anche economica. L'illusione che queste persone hanno danno che l'uomo forte di turno può risolvere tutti i problemi. Così non è, la storia l'ha già dimostrato, anzi gli uomini forti di turno hanno fatto più disastri che soluzione. Però c'è questa illusione nella gente, i grandi imprenditori della paura hanno saputo vendere bene la loro paura, facendo crescere il bisogno di sicurezza. Di questo fa bene alle lobby della sicurezza, del mercato che c'è dietro alla parola sicurezza. Ecco, alla fine ci troviamo in questa situazione, ma questo è la mancanza, perché la paura sia sul piano economico, sia sul piano culturale, sul piano identitario. Un continente come l'Europa che va invecchiandosi, quindi si sente meno sicuro, più precario su tutti questi aspetti, e allora l'uomo forte di turno che dice ci sono io che vi proteggo, ci sono io che vi salvo, riesce a conquistare. Ecco, oggi sembra che chi fa solidarietà, chi aiuta le persone in difficoltà, sia lui il criminale. Abbiamo visto la campagna, insomma, sull'ONG che per certi versi va ancora avanti. Ogni tanto c'è anche qualche buona notizia, ad esempio l'archiviazione delle inchieste che riguardavano la Sea-Watch e la preattiva Open Arms. Le chiedo come può fare una persona che non accetta la direzione che ha preso questo mondo a operare senza essere considerata, come dire, il nemico. La parola d'ordine è resilienza, e quindi resistere nel bene, nella lotta per la giustizia, per la solidarietà, per i diritti, per la pace. Quindi insistere, a lungo andare questa onda passerà, non sarà eterno, e quindi alla fine vincerà il bene comunque. Quindi bisogna insistere, tutti, ognuno nel suo piccolo deve essere procuratore e promotore di giustizia. La mancanza, lo squilibrio di mancanza di giustizia che sta creando tutto questo caos che stiamo vivendo, se ognuno cerca di fare invece di essere promotore e procuratore di giustizia, molte cose verranno superate.